Ben ritrovati, seconda parte di 451 frammenti sonori in compagnia di Max Macchia, che chiaramente insomma vi augura un buon ascolto, un ottimo ascolto, un meraviglioso ascolto, come dire. E Folk and Noise questa sera, a parte gli scherzi, insomma le diavolerie che vi prepariamo, o forse proprio in merito a queste, un viaggio dentro sonorità che si cibano sia di folk sia di noise, come dicevo nella prima parte, un noise che non va inteso insomma in termini chitarristici e basta, ma noise come attitudine, quindi come tentativo di filtraggio to cure di quella materia folk o folclorica o vagamente popolare, però con questo rimando alle origini o un'antichità, ma anche presunta, come abbiamo prima riferito rispetto a Vox, che sicuramente non è un filologo e neanche un etnomusicologo, quindi si rifà sicuramente a un'idea di folk molto molto generalista, se non sui generis, e sicuramente dentro il suo frullatore musicale, dada musicale, c'è sicuramente anche questa materia sonora, come tante altre. L'attitudine appunto è quella di sporcare, di rendere una sorta di patchwork anche immaginifico in termini sonori e sonici, che dà appunto avvio non soltanto a discografie assolutamente geniali come quella ascoltata ad esempio in Torch of Mystic di Sun City Girl, in quel particolare frangente del 1990 dei geniali americani, ma che ad esempio può essere espressa da People, quindi vecchia formazione giapponese, con i suoi riferimenti appunto all'antico Giappone, alla loro terra natia, come General Strike, con una sorta di esotismo e di colonialismo però di segno ribaltato, quindi una follia musicale delle nuove compagnie degli inglesi però del chissà di quale nuovo mondo, sicuramente non di quello conosciuto, appunto per un dub che si astrae, per un esotismo, una sorta di musica di Hawaii immaginarie e appunto punti del mondo assolutamente non ancora scoperti. Questo per quanto riguarda appunto viaggi dentro sonorità e attitudini di qualche anno fa. Con Vox appunto eravamo all'oggi, e con Commissar Juliar andiamo proprio ancora di più dentro la materia sia dada sia odierna, uniamo le due cose con folk, noise, giochi per bambini, astrazioni che diventano vaghezze ludiche da poter usare come si crede, come si vuole, appunto dentro il gioco, dentro la libertà dada c'è anche questa possibilità. Quindi se vogliamo trovare, come dicono loro, Commissar Juliar con la sua moglie Mama Bear dall'altro canto, si può sapere veramente poco a parte il loro nome, se non che vengono probabilmente da Zurigo, se non è un gioco anche questo dadaista, chiaramente è riferito al Cabaret Voltaire, storico locale di quella Zurigo furente, focosa, non di prima guerra mondiale ma appunto di avanguardia dada, e non solo, visto che in quel periodo c'erano le famose partite a scacchi di Tristan Tzara insieme a Lenin, come così ci piace ricordare, due avanguardie che in quel momento si incontravano e giocavano insieme. Chissà, Commissar Juliar e Mama Bear se si sono incontrati appunto per gioco, fatto sta insomma che poi giocando, ridendo e giocando, si stanno accompagnando anche nel corso della loro vita sentimentale e anche musicale, visto che la coppia, la strana coppia dada, dà frutti veramente notevoli in termini appunto di traslazioni, assurdità musicali, in questo caso strani giochi tra papà e bimbi e Carillon impazziti, sorta appunto di follia familistica che diventa musicale e che diventa appunto materia assurdista dentro questo strano esperimento, ripeto, di Commissar Euler e Mama Bear.

E se prima si parlava di Dada, come non parlare del probabilmente padre del dadaismo o figlio illegittimo, come dichiaravano appunto i futuristi, dentro una dialettica tutta ovviamente dell'avanguardia storica, delle prime avanguardie, poi ci saranno insomma le seconde, ma con 50 anni di distanza. E da i Dada, quindi Commissar Juliar, Mama Bear, se ancora ha senso parlare di avanguardia storica ai nostri giorni, a Officine Schwarz, Comfut, ovvero i comunisti futuristi, in questo caso italiani, che negli anni Ottanta portavano le loro traslazioni industrial dentro le musiche popolari, e Bella Ciao, che non ha bisogno di presentazioni, diventava Ciao Bella. Chissà, forse perché era un modo impressionistico, come tante volte sono stati citati anche i papà di Officine Schwarz, quindi futuristi storici, di dare un senso realistico alle loro immagini, quindi dettato appunto da un'impressione che appunto desse forza alle loro visioni, oppure un ribaltamento, come ci suggerirebbe già il titolo, non Bella Ciao ma Ciao Bella, che riporta sia al discorso a Pasolini, ma anche a molta sinistra extraparlamentare degli anni 70, che chiudeva tutta la faccenda della resistenza come oramai sussunta dentro le istituzioni, e quindi non più sviluppabile in chiave rivoluzionaria. Io vi lascio un po' il dilemma, anche se poi insomma avete capito sicuramente la lettura, e poi non è poi così difficile da svelare, anche per i riferimenti che Officine Schwarz facevano appunto alle avanguardie artistiche, in questo caso futuriste, ma con riferimenti appunto chiaramente a un passato che non si vuole soltanto popolare, folclorico in termini di memoria, ma anche in termini di portata politica, quindi anche se vogliamo di detournement o se vogliamo di rottura storica, per invece magari metterla più su una chiave futurista, e quindi di l'allineamento, di aprire nuovi fronti di conflitto, che portavano le musiche di Officine Schwarz da un popolare grottesco horror noise, come si può definire Ciao Bella, a una sorta di summa poetica dentro l'industrial, più anche realistico nei termini comunque di lotta politica, molto vicino poi e dialettico a quello che facevano Testy Parliament in Inghilterra, ad esempio sonorizzando con rumori industriali, con i propri rumori, i minatori, e accompagnando quella che è stata una delle grandi lotte di classe, tra le più importanti dello scorso secolo, perlomeno della seconda metà del Novecento, ovvero quella dei minatori inglesi. In Italia nell'86, quando usciva, l'87 anzi per essere precisi, Bella Ciao che diventava Ciao Bella, probabilmente c'era un ribaltamento non casuale, probabilmente anche dettato da affossamenti legati alle lotte di classe, che in quel periodo appunto erano decisamente latitanti, o appunto velate da quello che poi è arrivato ai nostri giorni, che quindi potremmo chiamare videocrazia, o fate un po' voi, insomma, in questo caso per il momento sospendiamo il discorso, d'altronde poi ne facciamo spesso di questo tipo, e quindi ci sarà anche modo di tornare, come spesso poi facciamo qua, 451 frammenti sonori. Per il momento curia, chissà se da Officine Schwarz che demolivano una chiesa diventata tale per un discorso politico direzionato appunto a farla diventare istituzione, la lotta di resistenza ai nazifascisti, curia forse, ci potrebbe suggerire qualcos'altro, appunto lascia aperto la faccenda. Thank you. Wow.